mi aspetto che sia vero tutto quanto ciò che vivo e mi possiede, sempre incluse in illusioni ereditarie che dovremmo esaminare. E se smetterò di pensare, vienimi a salvare. Se potessi ritornare allo stato grezzo, non avrei niente da imparare. Se potessi non sapere cosa è giusto, non saprei come sbagliare. Per essere libero dovrei scordare tutto quello che ho imparato.